bonito ser español, ¿a que sí? Claro, según se mire. Que España no más que un hombre. Que si hubiera dos nos iríamos todos para la otra. We'll be right back. claridad. Entzun, nara gailuak. Ez zerun nahi, miako egunak. Zekarrena, zekarrena. Politikaren alkako esia bide hori ekin esekin zenuen zein zen meretako egi ustera egi ustera Ketxatu den betela, ez zinen gauko biktima. Aurrerak inez, sortutako geroaren mugadez. Bideratuen deskontrolaren erantzuna. Erantzuna. Oh, indignas amor y no tenés compasión. Podemos cambiar. l'emozione e riflesso scuro della ragione. Ho tradito proprio me stesso nel disprezzo di ogni sentimento disperso. Ogni emozione in continui affanni di fallimenti, nei ricordi devastanti, nella morte dei miei sentimenti. Vivo nel lusso di pensare che ancora ti appartengo, isolato in spazi vuoti a torcermi io dentro. Voglio continuare a credere che ancora mi appartengo, masticato dalla vita e sputato via nel tempo. L'emozione nei continui affanni, nei fallimenti, nei ricordi devastanti, della morte e dei miei sentimenti. Vivo nel lusso di pensare che ancora ti appartengo, isolato in spazi vuoti a torcermi io dentro. Voglio continuare a credere che ancora ti appartengo, masticato dalla vita e sputato via nel tempo. suffering man. It's Eric Morgan, their number one fan. Wrinkle your glasses and give us a smile, right through the whole of the season. jeunesse est dans ton sang. Tonnerre, c'est ta patrie. Comme jadis les blousons noirs, toi tu es fort comme le rock. Pour combattre tout le désespoir, je veux créer ton époque. Oh, oh, oh. Alors lève-toi jeunesse France et me ferme dans car n'oublie pas jeunesse France que l'union c'est la force. Union, force, union, force, union, force, union, force. Yeah.